Allora, se voi cominciamo a parlare del tema che mi ha portato qua, la patria grande, già abbiamo parlato una settimana fa. Sì, abbiamo fatto un contesto storico. Abbiamo detto che era un sonno del Libertatore Simón Bolívar y Martí, de Miranda, de Sucre, de Mariátegui, de y tutti el resto que van desde Cuba, desde México fino a Argentina. Abbiamo parlato di quel sonno come una possibilità. Dopo abbiamo parlato di come mai fino adesso non si è potuto arrivare a essere realtà. Abbiamo detto che comunque era un sonno molto grande, molto complesso, non era così facile, e che lì c'erano molti interessi, fra quegli interessi di altre nazioni, interessi locali, e la cattiveria o la meschinità degli esseri umani, perché in Colombia o in America Latina non siamo altre cose che esseri umani. Quindi abbiamo tutte le fortune e tutte le disgrazie che ha qualunque altro essere umano in qualunque altra parte del certo, mondo. Non è che lì siamo perfetti forma. O qua, no, siamo fatti della stessa materia, quello per me è sicurissimo. E proveremo a parlare in questa puntata di come si traduce forse il concetto di patria grande più nell'attualità? Sì, cerchiamo di parlare prima di come si traduce quel concetto di patria grande in attualità o negli ultimi 20 anni. Sì. Perché è molto importante parlare degli ultimi 20 anni. E poi, corto, che fortuna o che disgrazia non prendiamo se questo sonno si potesse realizzare una questione reale, che ancora per quello manca molto. Sì, resta un'ipotesi, però sì, stavamo parlando ipoteticamente, come parlavano ipoteticamente la Unione Europea 60, certo. 70 anni fa, certo. E incluso lo che io dico è che il sonno della patria grande sembra irraggiungibile, però non potrebbe essere più irraggiungibile che 70 anni fa il sonno della Unione Europea. Certo. Per me era ancora più difficile fare. Sì, l'abbiamo detto. Già l'abbiamo parlato, quindi. Sì, di come era difficile, no, nell'idea o a priori poter fare un'Unione Europea con tutte le differenze culturali di tutti i tipi che ci stanno all'interno dell'Unione Europea, comunque qua, per merito politico, quello che ci sia, interessi anche economici, ci sono riusciti. Noi che abbiamo un'altra potenzialità, sudamericani, latinoamericani, con una, dicevamo, matrice culturale condivisa, non ce la facciamo. Però se qua sono riusciti, Eder, perché non noi? Perché no? Io penso che prima o poi se farà. Quindi se farà. Nell'attualità come si traduce questa cosa? Parliamo in attualità, parliamo di un gran evento che si è fatto in America Latina, che fu l'incontro dell'ALCA, sì. Nel 2015, stavamo parlando soltanto di 6-7 anni fa, 2015, sì, 6 anni fa, dove è nato il Mercosur, dove si è eliminato per un grosso blocco dei paesi latinoamericani l'ALCA. L'ALCA era il trattato di libero commercio con Canada e Stati Uniti, per che le persone sappiano. E che voleva imporre Bush, figlio, in quel caso, per tutta l'America o per tutte le Americhe. Cioè, quindi voleva fare un'area di libero commercio dal Canada fino all'Argentina e il Cile. Però volevano fare ovviamente una zona amplissima di libero commercio, ALCA, però tenendo in conto le differenze e avendo la idea che loro dominavano il mercato, loro e Canada dominavano il mercato e tutti il resto erano pedoni in quella immensa scacchiera. Per fortuna, dico per fortuna, in quel momento storico c'erano Hugo Chávez in Venezuela e il brasileno Lula in Brasile, stava Rafael Correa in Ecuador, estaba José en Chile, estaba, sí, estaba Kirchner Argentina. En Argentina, estaba el Mujica en Mujica, Uruguay. No, Mujica estaba arribando, pero estaba el que estaba prima de Mujica, que en este momento no. Ah, me viene Vázquez, Manone Vázquez, el presidente. Sí, Tabaré Vázquez. Tabaré. Sí, Tabaré Vázquez. Y logró, no fue un grosso grupo de confronto al ALCA. Yo, honestamente, de Due Giorni Fa, estoy sentiendo tutti de discusiones que se han fatto en el ALCA, incluso molto interesante, un po' noioso, pero molto, molto interesante. Y veo un bus triste, casi sumerso en un piccolo ángulo de la historia, al menos en quel momento histórico. En quel momento histórico es nato la idea de crear un bloco latinoamericano, suramericano, molto forte, donde se estaba pintando de lo que noi soñamos como patria grande. Fue un bel experimento, riuscito fino a un cierto punto. Dopo parliamo perché è finita, come è finito, però diciamo che hanno creato una cosa interessantissima. Ovviamente non tutti i governi stavano a favore di questo blocco. Stava Álvaro Uribe Vélez, de presidente di Colombia, quello non lo posso dimenticare. El presidente de Panamá, que por su triste figura no recuerdo su nombre, e altri que honestamente facevano parte del bloco, hanno fatto sempre vicino a los Stati Uniti. Sí. E por questo se può capire, y se capirà, es un tema complejo, possiamo fare un'altra discusiones de por qué Álvaro Uribe en América Latina o en Colombia es cosa intocable para el popolo y para la justicia. Certo. Porque la respuesta se puede trovare anche en questi interventi. Pero anche allora, nonostante la presencia de un presidente como Uribe, c'era un contexto favorable, diciamo, per quello que si può chiamare, mettete le virgolette quante ne volete, il progressismo in Latinoamérica. Perché ovviamente ci troveremo o vi troverete in disaccordo con tante cose di questi governi, però andavano d'accordo in tante cose, e come diceva Eder, è stato un punto importantissimo, perché nel XXI secolo hanno dimostrato che a quei livelli si poteva fare un pochino di blocco, cioè che non veniva già George Bush o chi sia come presidente degli Stati Uniti a fare quello che gli pareva in America Latina, come se veramente fosse il cortile loro. E quindi è stato almeno interessante in questo senso. Ti posso proporre una cosa, Eder, perché ho trovato, così ascoltano anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici, l'intervento che aveva fatto Hugo Chavez, l'allora presidente del Venezuela, in quello che era l'incontro dei popoli, credo, perché in parallelo all'ALCA, o a questa, perché non era l'ALCA, c'era l'idea di imporre l'ALCA, ma era una cumbre degli stati americani, no? E in parallelo si faceva quella delle organizzazioni sociali, collettivi, partiti, sindacati, eccetera, che era l'incontro dei popoli. Ha avuto un intervento molto interessante che io credo che ne vale la pena farlo ascoltare, dopo lo possiamo tradurre, perché lì veramente lascia Chavez una delle tante frasi che sono un colpo di genio, perché veramente in quel contesto, in quel momento, lui se ne approfitta, diciamo, dello spagnolo, e ci dice, rispetto all'idea dell'ALCA, l'area del libero commercio che voleva imporre gli Stati Uniti, ci dice cosa ne pensa lui, cosa ovviamente ne pensava, credo, buona parte del popolo latinoamericano. Cada uno de nosotros trajo una pala. No funciona. Una pala de enterrador. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. ¿Quién enterró al ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA. ALCA, ALCA, al carajo. Y así lo decía Hugo Chávez. A mí realmente siempre es muy simpático. El ALCA, ALCA, al carajo, producto, credo, de quel ingenio latinoamericano, ¿no? De quella creatividad latinoamericana. Certo, Sarve, ¿no? Un alca, alca, fancum. Pero la rima, obviamente, funciona con lo español o con el alca, alca, al carajo. E diceva che giustamente ognuno, no, di coloro che stavano là in quell'incontro, non ricordo se era lo stadio di Argentino Junior, quale squadra dell'Argentina, dove si faceva questa presentazione mitica, pure con la presenza di Maradona, per citarvi alcuni personaggi, cioè il livello di alcuni, Manu Chao sempre girando da lì, quindi presidente di Latinoamerica, Maradona, artisti, un po' di tutto c'era in quel incontro dei popoli. Diceva che ognuno di noi aveva una pala, no, per seppellire all'alca questa idea che volevo imporre, e che dicevamo, no, per fortuna veramente non ci è riuscito Bush. No, per riuscito, per fortuna non si è riuscito, per fortuna questi movimenti progressisti, perché per me sì erano sì, sì, no, ma certo me, di sì. Per me Hugo Chavez è un personaggio fondamentale nel momento storico di Latinoamérica. Por carità, possiamo discutere se non si è sbagliato, se è sbagliato, dove è sbagliato. Quella è una discussione che si può fare. Ma certo. Però che ha avuto la idea di recuperare la dignità del popolo latinoamericano, quello è senza dubbio. Come il governo cubano, come il governo di Lula in quel momento, come il governo de Argentina, guardando las proporciones, sí, estoy hablando de sí, Kirchner, sí, sí, certo. Sobre todo guardando las proporciones, porque obviamente no todos son iguales ni todos tienen el mismo coraggio. Pero el fatto che si mettessero d'accordo, sì, tra di loro vuol dire qualcosa, no? No, che andassero, no, così nella stessa sintonia. Y se ha demostrato che il sonno latinoamericano, il sonno della patria grande, es un sonno popolare che sta crescendo e che il governo, non soltanto le parti di sotto, le persone normali, comuni, a piedi, le abbiamo, sino che buona parte di questi governi populisti le hanno, capito? Sì, sì, sì, sì. E in quel senso è molto importante dire che il sonno era, che hanno risposto in alcune occasioni quasi come unisono, che stavano sobre la stessa tonalità, e quello era molto molto importante. Oggi si sta recuperando un po' il sonno della patria grande, dello due estremi, de lo che è Messico e Argentina, si stanno unendo de estremo a estremo e stanno a fare un esperimento molto molto bello. Onestamente io stavo aspettando che il neogoverno del Perù cominciasse a fare anche la sua parte. Stanno tardando un po', però ancora non perdo le speranze che loro lo possano fare. Prima o poi un governo, no? Come quello di Castillo, se non sbaglio, sì. Prima o poi uno si aspetta che dovrà fare qualche mossa, sì, sì, in quel senso. No, prima o poi. Teoricamente quello era parte del programma politico suo, e per quello alcuni compagni qua li abbiamo fatto anche un po' di forza perché potesse, certo, salire al potere. Sì, infatti. Però c'è un accontecimento che mi piacerebbe parlare per capire qual può essere la forza che aveva quel gruppo di paesi. Sì. 2007 stiamo parlando, Eder, 2007, questa cumbre delle Americas, sì, no, 2007. E nel 2008 si crea l'UNASUR. Sì, sì, sì. In quella epoca il governo colombiano illegalmente bombardea un campamento, teoricamente un campamento guerrillero, in la zona di Ecuador. Va bene, bombardano il campamento guerrillero in zona ecuadoregna, entrano all'Ecuador, prendono un computer, prendono qualche cosa e ritornano indietro, ritornano a Colombia. Il governo ecuadoregno, che in quel momento era con Rafael Correa, ha chiesto esplicazioni al governo colombiano. Il governo colombiano ha detto che era territorio colombiano e che non se le fregava niente perché era territorio colombiano. Quando il governo ecuadoregno fa le coordenate, il GPS di quella zona, descubre che era un territorio ecuadoregno, e abbastanza avanzata. Un'incursione. Che l'aereo che hanno bombardato bisognava fare un giro, quindi per fare il giro bisognava andare quasi hasta la metà dell'Ecuador per tornare indietro e bombardare, perché non potevano farlo senza fare questa manovra. Hanno fatto un'incursione. Il governo colombiano di Álvaro Uribe Vélez ha fatto il prepotente e ha detto che lui faceva come, in poche parole, che faceva come voleva, e ha spostato gran parte dell'esercito colombiano verso frontiera ecuadoreña. Di nuovo un'incursione militare. Questo ha causato un'allerta generalizzata in America Latina. Il governo americano immediatamente si è messo a disposizione del governo colombiano, senza contare che il governo venezolano ha immediatamente spostato l'esercito alla frontera con Colombia. L'esercito ecuadoreño, il poco che esercito che ha Ecuador, perché Ecuador è un paese relativamente piccolo, l'ha spostato. E l'esercito di Brasil si è messo in allerta massima e si è fatto una riunione interessantissima, tra altre cose, di questo presidente, dove il presidente di Colombia, Álvaro Uribe Vélez, si autogestiva la responsabilità di fare qualunque operativo in contra di lo che lui chiama terrorismo in qualunque parte, partendo dalla dottrina Bush, che è una dottrina chiarissima, però non aspettava la risposta di questo tipo unanime di gran parte di America Latina. Sì, un po' le hanno fatto capire. Quello hanno fatto capire che non era così facile gestirsi la situazione come loro pensavano. Appunto, ormai non e che così. Stati Uniti non aveva il potere militare come 10 anni fa. Sì. Non poteva avere. Ricordiamo che, diciamo, l'ultima esperienza bellica nell'America del Sud era stata la guerra tra Ecuador e il Perù tra il 94, 95, 96, 97, credo, non, 90, se non, 90, però 90, metà 90, degli anni 90. 95, 96. Quindi erano passati più di 10 anni, sì, dell'ultima esperienza, dell'ultimo caso bellico, diciamo, all'interno delle frontiere del Sud America. Quindi, come avete capito di quello che vi ha detto Eder, cioè diversi eserciti, no, messi in diversi, si sono mobilitati, quindi la situazione diventava grave. Comunque l'hanno risolto politicamente. Incluso parlando di quella guerra un po' assurda che ha fatto Perù e Ecuador per una parte dell'Amazonia, è una guerra fatta per nascondere gli omicidi e i genocidi che aveva fatto Alberto Fujimori, che lo ha cercato di nascondere con una guerra. Dopo, per fortuna, il popolo peruviano si è preso tutta la storia, e in questo momento Fujimori sta in galera. Sì. La figlia quasi diventa presidente, quindi vabbè, cioè, però mancherebbe la figlia, come tutto, i processi sono lunghi, figlia, però comunque i processi lì si sono complessi. Sì. E curioso. Torniamo all'UNASUR, che dicevamo. Riesce a risolvere politicamente questa vicenda? Riesce a risolvere politicamente questa faccenda non facile. Riesce a creare una commissione di inchiesta internazionale. E le chiedono al governo colombiano, perché questo bisogna dirlo veramente: al governo colombiano, di portare il computer, del famoso computer che tutti parlano, dove teoricamente avevano prove di finanziamenti a Correa, di finanziamento del Movimento 5 Stelle in Italia, di finanziamento del Partito Comunista PRC, Partito de Renovación Comunista e altri, sì, che teoricamente tutto sta in quel computer, sì, era un computer immenso. E il governo colombiano mai ha fornito queste prove e mai ha lasciato vedere quel famoso computer, e le prove sono cadute per il loro peso, che ovviamente Álvaro Uribe si è mangiato le parole, in poche parole, dopo quella cumbre si hanno mangiato le parole. Ovviamente la persona uccisa in Ecuador era Ernesto Chiso, pues, quello è ovvio. Però dopo di quello in America Latina non si è fatto un intento così idratante o pesante che potrebbe involucrare vari eserciti di America Latina. Sì, no, per fortuna mai più, anche se non è finita bene l'esperienza di Luna Sur. Non ha finito bene, però c'è un'altra esperienza che mi lascia molto, che ricordo molto bene, fu il golpe a Celaya. Sì, il golpe nel militare, Guatemala. Honduras, scusate. Che anche lì ha risposto con un po' più di ritardo, con un po' più meno veloce, però ha risposto una sur, e dopo un processo lunghissimo e complessissimo la situazione si è arrivata a un stand-by, una soluzione, a una idea negoziata. E, purtroppo questi governi teorico o di sinistra o progressista America Latina hanno crollato uno a uno. Lula ha finito in galera per un processo fatto male, senza nessuna prova, per una condena stupida, perché veramente stupida. Correa è rimasto con processi penali complessissimi, e incluso lo accusano di fare delinquenza via telepatica, cose assurde, e in questo momento si trova in Bruxelles. Il vicepresidente di Correa sta ancora in galera. Sì, cambia tutto. Cioè, la mancanza di Chávez. Hugo Chávez è importantissima. Il morto di cancro. Vabbè, lasciamo la storia di cancro. Il morto di cancro. La questione è che non è lo stesso Maduro che Chávez, quindi questo si risiente. Non è la stessa capacità né intellettuale. Chile passa dal centro che rappresenta Bachelet al destra-destra, sì, con Piñera. Kirchner restano Néstor, fino al 2015. Néstor è morto di cancro, e la Kirchner rimane fino al 2015, se non sbaglio, e dopo arriva a Uruguay. Mujica ci stava, grande Mujica, sì. Però per fortuna, per desgracia, Uruguay è un paese piccolissimo, quindi sino la possibilità di incidenza. Però è un referente. Certo. Etico e culturale, certo. Impressionante quello, però la incidenza reale di cambiare la storia d'America Latina e Uruguay, purtroppo, è la che è. E Colombia continua a fare tutto il governo di estrema destra fino a oggi. Aspettiamo che la prossima elezione del 2022 cambi qualcuna cosa, però il sonno latinoamericano continua a essere. Quello ti volevo chiedere, così prima di finire, ci abbiamo ancora alcuni minuti. Verso dove va? Quali sono le prospettive di questo sogno latinoamericano? Dicevamo, l'UNASUR ha avuto veramente questi meriti, è stata molto importante questa unione delle nazioni sudamericane in questi eventi in particolare. Cambia il contesto politico, arrivano altri governi e quindi l'UNASUR resta là. Perché? Perché si sentono di più le differenze tra la Venezuela, che ne so, de Maduro, e il Cile de Piñera, in Ecuador cambia la cosa e no, così perché via. Soprattutto i governi che salgono del potere e tornano la destra in America Latina, distruggono il Mercosur. Appunto. Ecuador si ritira dal Mercosur, prende una cláusula che non dovrebbe esistere, che era che qualunque paese potrebbe fare eliminare il Mercosur. Unasur potrebbe eliminare Unasur, e eccetera. Lo unico vero è che se questo progetto, che va da Messico fino a Argentina, se potesse fare realtà, sarebbe un progetto impressionante. Diciamo ma che non avremo bisogno di nessuno. No, si fa per quello, si fa per tutto lo contrario, per aver bisogno di una solidarietà, di un mondo più uguale. Sì, quello tra di noi, ma io dicevo interessante. Abbiamo, diciamo che Europa si è tardato secoli per fare lo che oggi è Europa. Secoli, non è vero che si è tardato 70 anni, quello non è vero. No, ma certo. No, è vero, la storia di Europa viene da secoli e secoli. Appunto, lì, sono processi storici molto diversi. Molto, molto diversi, molto complessi. In America Latina stiamo parlando di 500 anni dopo la colonia, di soltanto 250 anni dopo delle geste di indipendenza, certo, come nazione, che sono tanti, però per la storia dell'umanità sono relativamente poco. No, no, appunto, processi diversi e quindi risultati, risultati diversi. No, no, per carità. E non è che Europa ha avuto bisogno di due guerre mondiali in meno di un secolo, in meno di mezzo secolo, per essere esatto, di milioni di morti. Non stiamo parlando di mille, stiamo parlando di milioni di morti. Milioni. La distruzione totale di Europa, distruzione fisica, morale, etica di tutta Europa. Di Auschwitz, della bomba Hiroshima e Nagasaki, per fare lo che oggi chiamiamo Unione Europea. Cioè, non fu un processo gratuito né facile da fare. In America Latina stiamo nel stesso processo, però sarebbe una nazione che va desde Argentina fino a Messico. Te potete immaginare, soltanto in Colombia abbiamo 61 lingue indigene native. Se puoi immaginare la ricchezza soltanto linguistica, ma certo, parlando del popolo di tutta la, tutti gli Andi, del popolo boliviano, della Aymara, del Quechua, dell'Uva, della Azteca, ossia tutte queste lingue, sarebbe una ricchezza impressionante. Stiamo parlando di una nazione che si occuperebbe praticamente due grossi pezzi di oceani ai due estremi. Sarebbe una cosa impressionante. Saremo soltanto in petrolio, abbiamo paesi come Venezuela, che è il paese con più petrolio in riserve comprovati del mondo. Il gas nella Bolivia. Il petrolio dell'Ecuador, il petrolio de Messico. Il rame in Cile. El litio de Bolivia. De Bolivia pure. L'oceano della Colombia. Bestiame e grani quanto ne volete. El oro del petróleo, el oro del Perú, el oro colombiano, avremo montagne molto più alte che Monte Bianco e abbiamo avuto deserti. Ce l'abbiamo, diciamo. Sì, però con tutto quel progetto. Sì, ce l'avremo tutti. Ma stanno là, ce l'abbiamo tutti. Diciamo che in Colombia ci sono zone del paese che vanno a quasi a 6.000 metri sopra l'altezza del mare e ci sono città che vanno a 10 metri sotto il livello del mare. Sì, beh, abbiamo la Concagua. Abbiamo la Concagua, il deserto. Andiamo della Tierra del Fuego, Argentina o Patagonia, fino al Golfo di Messico praticamente. Però, è una cosa impressionante. Per questo ti dicevo, dai pinguini a delfini rosa. Infatti, per questo ti dicevo, un po' scherzando, non avremo bisogno di nessuno in questo senso. Ovviamente ci arricchiremo all'interno, perché un po' la patria grande si basa in questo, in una relazione che esiste, che già esiste, no? Tra di noi, diciamo, latinoamericani, però dicevamo questa matrice culturale a livello di ricchezza e di e giustamente di tutte le ricchezze che potremmo avere, che ci abbiamo così condivise, non avremo bisogno veramente di nessuno e potremo, credo, relazionarci meglio ancora tra di noi. Però comunque il progetto della patria grande non è il progetto imperialista per fare un grosso imperio che distrugga il resto del mondo. No, sarebbe tutto lo contrario. Ma chi l'ha detto? Fare un mega continente dove possiamo parlare di solidarietà, di fratellanza fra magari popoli, parlare di diversità etnica e culturale, possiamo parlare di ricchezze in tutti i sensi. E ovviamente, yeah. Eder, ovviamente, anche se parlano portoghese li coinvolgiamo, no? Ai brasiliani, sì. Sì, sì, ah, sì, li chiamiamo, no? No? Cioè, anche se parlano, cioè, se ne un dialetto. Sì, no, dai. Li chiamiamo, no? Cioè, questo io lo do per scontato. Nonostante la saudade. No, anche meglio la saudade che la nostalgia del tango che piange. La saudade è almeno ricordare una cosa che lo ricordi bene. No, perché te sei argentino? Comunque, quando Lula stava nel potere, sì, que aspettiamo che arriva, ritornerà, sto quasi sicuro che sì. Lula si aveva messo già in testa, Lula e tutto il mondo, di far parte di questo immenso progetto. Ma magari. Questo immenso progetto. No, sicuramente forse morirò prima di vederlo. Sì, ma anche io, stai tranquillo. Però il sonno esiste, l'utopia nel meglio dello sensi esiste, e quell'utopia è fondamentale per la storia dei nostri popoli. Io l'ho detto la settimana scorsa, fino a che un popolo non recupera la sua dignità e non si possa guardare alla faccia come un popolo, non possiamo sognare. Però se qualcuna cosa in America Latina non fa sognare, non fa sperare, non fa sentire come parte di una storia grande, è la patria grande. Sì, senza dubbio, appunto, come popoli ci dobbiamo riconoscere, lo hai detto bene, perché purtroppo io almeno mi posso accolare sempre tra virgolette il popolo argentino, ci abbiamo tanto da fare, no? Dico, ci abbiamo di fronte un lungo percorso per poter arrivare da soli, noi senza che nessuno ce lo dica, a questo. E credo che il lavoro per la patria grande, per questa condivisione che ci abbiamo tra i popoli, sta là, nei popoli il lavoro, no? O sui popoli, nel senso di provare a capirci sempre più tra di noi, non aspettare queste soluzioni da capocce magiche. Eder, tu hai scelto qualcosa, no, musicalmente? Ci abbiamo una musica che tu ci hai mandato? Ah sì, se la vuoi. Sì, no? Quella io l'ho messa. È stata una scelta tua. Che te ridi, me l'hai mandata tu. No, quella scena mi è piaciuta soprattutto per l'immagine, però come stiamo alla radio. No, infatti, indubbiamente dietro questo. Però la brano, musica, sì, ci sta. La musica ci sta. Perché è non molto fate colombiana, non sono... è molto colombiana, è molto di matrice con un po' salsera, dai, è un po' salsera. Ci sta? Dai, ma allora andiamo, lo vuoi presentare, Eder? No, no, no, andate. Ma dici, raccontaci cosa andremo ad ascoltare. Il latino, no, scorrono, diciamo, il testo è palese, parla dell'immensa ricchezza non solo dei popoli, e intanto nelle immagini scorrono balli folcloristici, costumi, insomma, quindi tutta una serie di immagini pertinenti al testo. Allora, veramente celebra molto. Percorre con le immagini baile di tutta America Latina, esatto, che vanno da Argentina fino a figo, Messico, grande. Va desde la cumbia colombiana, esatto, alla musica, al baile dell'alta pianura boliviana, ¿ya? Allora, le immagini è bellissimo il video. Bellissimo, sì. Allora, però il video ovviamente questo è radio, quindi se no si chiamerebbe televisione, quindi le immagini non ci meno sono. Male, io, cioè, appunto, infatti, meno male, quindi siamo contenti di questo. Soy latino della patria grande, Alturas. Questo dovete cercare, questo è quello che ascolterete ora sulla Esquina del Sol, grazie al nostro Eder. Se escucha el canto de un pueblo y su gente. Un pueblo lindo, un pueblo hermano, el pueblo que amo, porque es el pueblo mío. Soy las voces que gritan en mi mente, el pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo grande, un pueblo fuerte, el pueblo que amo, porque es el pueblo mío. Yo soy latino, vamos hermanos, seguir luchando por nuestra patria grande. Yo soy latino, allá en la marca, yo soy el canto latinoamericano. gozar, mami. Ecuajá. Latino, latino soy, latino de corazón. Latino, latino soy, el grito de mi nación. Latino, latino soy, un pueblo en libertad. Oye, hermano mío, levante la bandera. Insomma, questo Pueblo Unido jamás será vencido sulla salsa, devo dire, un fomento comunque. Che ricordi, de Casa del Popolo, del Circo Politico Italia, 80 Intilimani suonando. No, io 80 no. ancora ero piccola. Comunque no, dico, per forza qualcuno che ci ascolta. Ah no, certo, sì, sicuramente. Era ancora piccola, dice lei. Vabbè, facciamolo così. Eder, il prof. Diciamo che es uno de los tantos ejemplos de la patria grande, una música portada de Chile, de Intilimani, una música portada de Intilimani, poi quella stessa música convertida en salsa, o en música molto caribeña, pues salsa claro colombiana, sí, pero comunque con heredità del Caribe, y con tutte le immagini de las personas que bailan de Alto Bolivia, Argentina, fino a México, fa parte de toda esta historia. Sí. O sea, fa parte de todo este mega proyecto, llamámoslo así, que nos da la posibilidad de continuar a soñar. Yo pienso que ogni gobierno o ogni candidato presidencial o progresista en América Latina bisogna aver molto chiaro e molto definita l'idea di patria grande. Nessuno in questo momento, nessun governo progressista o chiamati progressista, può ausentarsi da questa discussione. Non può, cioè, qualunque che si arrivi al voglia essere progressista o guardato con certo carisma in America Latina, bisogna retomare questa storia. Sì, è obbligatorio per me. Io credo che dobbiamo essere noi i popoli, sì, a farli capire, perché se noi dimostriamo, e di nuovo mi accolo il caso argentino in quanto sono tale, così lo dice il passaporto e culturalmente mi posso definire tale, il popolo argentino non è che sta dimostrando una voglia di patria grande, di capire queste cose, purtroppo lo devo riconoscere, almeno nella maggioranza. Per questo dico, dobbiamo essere noi i popoli a capire questo, per sì imporlo ai nostri governanti. Se non lo capiamo noi, perché dovrà venire dall'alto? Io onestamente penso che il popolo, soprattutto il popolo indigeno latinoamericano, lo stanno capendo molto bene. Il popolo aymara, quechua, il popolo indigeno che stanno sotto la bandiera della Huipala. Sì, lo dobbiamo capire tutti. La famosa Minga, stanno gestendo quel immenso sonno. Certo, è vero, sì, lo dovremmo capire tutti. Però, come l'ho detto la ultima volta, una settimana fa, e penso che non è sbagliato in quello, ho detto le lotte in quella zona del, sì, mondo se stanno gestendo desde la minga. Il riconoscimento di questi popoli che hanno lottato durante 500 anni e hanno resistito durante 500 anni, in questi momenti si stanno a vedere i frutti. Stanno, loro sono la proposta di impulso generalizzato, e es questa, questi popoli con diverse lingue che va dalla Aymara al Quechua a non so altri, a moltissimi altri parlando anche sì, Lua, sì. Stanno creando questa rete di solidarietà e tenerezza fra i popoli. Sì, questo... sono loro lo che stanno facendo crescere questa idea, e è lì dove sta nascendo, renascendo, perché non è renascendo, l'idea di rompere queste frontiere, no, certo, questo... e creare una nazione unitaria. Certo, no, questo senza dubbio, infatti dovremmo guardare di più a questi... a questi popoli, sì. Però credo che se noi, di nuovo, sempre tra virgolette, perché veramente da un bel po' che faccio fatica a usare la parola popolo, almeno quando io mi devo riferire all'argentino al quale dovrei appartenere, faccio fatica per il concetto di popolo, dobbiamo essere noi giustamente a vedere questi esempi, a capirli. Non credo che saranno i nostri dirigenti ancora, se noi non facciamo forza sarà difficile. Io penso che sia un processo storico, certo, complesso, e dove vanno tutti intrelazati, o sea, non è che solamente il popolo lo fa, il dirigente politico è il risultato, deve rispondere a quello, è il risultato di un momento storico concreto e deve rispondere, capito? A quello, e dovrà rispondere anche a quello, o sea, i leader di America Latina bisogna rispondere a quello, per esempio il presidente di Messico ce l'ha molto chiara quell'idea. AMLO. Cuba ce l'ha molto chiara quell'idea, però molto, o sea, è tutto quello, si sta creando un gruppo. Per quello noi abbiamo la speranza di che paesi come Colombia possiamo cambiare la posizione politica, a mettersi più in armonia con il nostro popolo latinoamericano. Dipendere dal popolo colombiano. E dare un piccolo passo avanti in questo sonno. Speriamo. Perché ovviamente non è un sonno piccolo, però come non è un sonno piccolo, la creazione dell'Unione Europea, che è assolutamente artificiale, però funziona. Per coloro che deve funzionare, funziona. Allora yeah. Potremmo dire che dal nostro punto di vista, sì, non funziona. No, però a livello burocratico, a livello politico, hanno aperto le frontiere per voi, ovviamente. Sì, vabbè, sarebbe lungo. Quello possiamo, sì, parlare, però comunque quello è assolutamente artificiale. Per noi, che non è così artificiale, cominciare a fare realtà queste sono, è uno scopo di noi, almeno mio, durante praticamente tutta la mia vita. Speriamo bene, Eder. Non lo vedremo noi, No, lo vedremo noi, però quello non importa, quello è lo che meno mi importa in questo mondo, se lo vediamo noi o no, quello no, che se faccia, però non è un tema di discussione, siamo contenti di non vederlo, basta, no, che se fa, questo è come l'utopia, come diceva Edoardo Galeano, l'utopia serve l'utopia, lo mandano a Galeano, ¿para qué sirve l'utopia? Se io cammino un passo e l'utopia va un passo più avanti che io cammino due passi e l'utopia sta due passi davanti di me, per che serve l'utopia? Allora serve per quello, per camminare, per andare avanti. E per quello l'utopia in qualunque popolo c'è bisogno di esistere. E bisogniamo fare parte delle utopie. Per fortuna esistono e per fortuna non fanno il motivo per esistere. Grazie. Eder, ci vediamo prossima settimana sicuramente.